notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Oggi funerali degli agenti uccisi negli attacchi di Parigi, mentre si cercano i complici degli jihadisti. Sarebbero almeno 6 e c'è un francese detenuto in Bulgaria che avrebbe avuto contatti con i fratelli Kouachi. L'allerta in Italia rimane alta, ma nessuna minaccia specifica, ribadiscono fonti ufficiali dell'intelligence. Il commissario di Expo Sala a Radio 24, la manifestazione potrebbe essere un obiettivo, ma siamo pronti. Renzi chiude il semestre di presidenza, l'Europa ha cambiato direzione, ma ora i fatti. 6 mesi di nulla, dice il leader leghista Salvini. Sono le ultime ore di Giorgio Napolitano alla presidenza della Repubblica, sono contento di tornare a casa, dice il capo dello Stato. Obama riceve i San Antonio Spurs, vincitori dell'NBA, e si rivolge a Marco Bellinelli, ci manchi ai Chicago Bulls. Per il calcio, nuovo scontro tra vertici di Roma e Lazio dopo il derby. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. I nostri contatti, come sempre, effettogiorno@radio24.it per scriverci, la nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno e durante la trasmissione il numero di SMS, il 349-238-6666. Dunque, in apertura, torniamo a Parigi per le indagini sugli attentati dei giorni scorsi. Si cercano i complici, si lavora in sostanza sulla rete. Chi ha postato su internet il video postumo di Amedy Coulibaly? Chi ha aiutato i fratelli a compiere la strage all'interno della redazione di Charlie Hebdo? Intorno a questi ed altri interrogativi si concentrano le indagini sugli attentati a Parigi. Gli autori delle due stragi avevano senza alcun dubbio dei complici, ha detto il premier francese Valls, che ha annunciato come la caccia continui e sono almeno 6 le persone ricercate. Inizialmente i sospetti erano ricaduti su Hayat Boumediene, che però si è poi accertato aveva lasciato la Francia una settimana prima, il 2 di gennaio. La donna sarebbe in Siria dall'8. La paura comunque non si placa. Oggi alcuni siti jihadisti hanno pubblicato minacce di Al-Qaeda. Intanto dall'Osservatorio contro l'islamofobia del Consiglio francese del culto musulmano emergono numeri inquietanti. Da mercoledì a oggi ci sono stati più di 50 atti antimusulmani. Ed è stata rafforzata la vigilanza intorno alle scuole ebraiche del paese con il dispiegamento di 5.000 agenti. Tra le ipotesi è infatti emerso che l'obiettivo di Coulibaly avrebbe potuto essere un asilo ebraico. Lo avrebbe detto lui stesso a uno degli ostaggi del negozio nelle lunghe ore di assedio. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Questo è il punto sulle indagini, mentre a Parigi oggi è stata ancora una volta una giornata di emozione nel saluto ai 3 poliziotti morti nel corso degli attacchi e naturalmente ancora una giornata di scontro politico, soprattutto col Fronte Nazionale di Marine Le Pen, in merito soprattutto all'accordo di Schengen. Ci colleghiamo con Marco Mussanè, corrispondente del Sole 24 Ore da Parigi, per fare un punto su tutto questo. Marco, buongiorno e bentornato ai nostri microfoni. Buongiorno a voi. Allora, partirei naturalmente da questa mattinata nella quale il presidente francese Hollande ha reso omaggio ai 3 uomini delle forze dell'ordine, 2 uomini e una donna che hanno perso la vita. Sì, in realtà le manifestazioni di lutto, di cordoglio, questa mattina sono state 2. C'è stata quella in Francia, nel cortile della prefettura di Parigi, dove Hollande ha reso omaggio ai 3 poliziotti uccisi durante gli attentati, gli attacchi dei 3 terroristi, 2 nell'attacco a Charlie Hebdo e una a Montrouge, ricordando che sono morti per la nostra libertà. Nel contempo c'è stato un altro momento di grande commozione a Gerusalemme, dove si sono svolti i funerali dei 4 ebrei uccisi da Coulibaly nell'ipermercato di Porto de Vincennes. Nel contempo la tensione risale in coincidenza con l'uscita domani nelle edicole del nuovo numero di Charlie Hebdo. In copertina ancora una volta ci sarà una caricatura irriverente di Maometto e le autorità musulmane francesi hanno invitato alla calma la comunità per evitare appunto che ci siano ulteriori elementi di tensione intorno a questa vicenda. Ecco Marco, poi c'è un fronte più puramente politico nel quale si segnalano naturalmente le nuove dichiarazioni della leader del Fronte Nazionale, Marine Le Pen, da una parte contro il trattato di Schengen e dall'altra parte si segnala un Hollande che pare comunque rafforzato dalle vicende di queste ultime ore. Sì, Hollande è uscito sicuramente molto bene da dalla prova terribile di questi giorni bui. A detta di tutti gli osservatori ha trovato i modi, le parole giuste, i gesti giusti che ne hanno rafforzato il ruolo e la figura presidenziale. Si tratta di vedere ora quali saranno le decisioni, perché è chiaro che da destra c'è una forte pressione, una forte richiesta perché si adottino delle misure molto restrittive delle libertà in nome appunto di una maggiore sicurezza. Alcuni hanno anche evocato l'ipotesi, l'idea di un Patriot Act alla francese. Ricordiamo che Patriot Act è l'insieme delle misure che negli Stati Uniti vennero varate dopo l'11 settembre e che nate per essere temporanee in realtà sono state prorogate di volta in volta e sono tuttora in vigore. Si tratta di vedere come appunto il Presidente, il Partito Socialista, il Governo riusciranno a gestire al meglio questo difficile momento e quindi a varare delle misure che diano alla popolazione una maggiore sicurezza e nel contempo riescano ad evitare di scivolare verso appunto un minor rispetto della libertà individuale. Grazie, ti ringrazio Marco Mussanè, anche di questo torneremo a parlare più avanti nel corso di Effetto Giorno e lo faremo insieme ad Antonello Soro, garante per la privacy, proprio per discutere quali sono i limiti a queste misure che si possono mettere. Il fronte italiano naturalmente rimane con un'allerta molto elevata, anche se continuano a ripetere varie fonti, non ci sono minacce specifiche. Nessuna minaccia concreta, i nostri 007 ribadiscono che al momento non ci sono segnalazioni specifiche di attentati in preparazione contro il Vaticano, ma sottolineano anche che Roma e la Santa Sede rientrano fra i possibili obiettivi di attacchi, come testimoniano anche alcuni video di propaganda dello Stato Islamico. L'IS considera un successo gli attacchi di Parigi, ma in questo momento è costretto a fare i conti con difficoltà economiche dopo la decisione dei paesi produttori di abbassare il prezzo del petrolio, che ora è di poco superiore a quello con cui viene venduto di contrabbando dal califfato, spiega la nostra intelligence nel suo ultimo report sul rischio terrorismo citato da Repubblica. Stando al rapporto, l'attenzione dei nostri servizi in questo momento si concentra soprattutto sull'attività di propaganda, sia sui social network sia nelle moschee, soprattutto quelle di orientamento salafita più vicine al radicalismo islamico. Massima allerta anche per quanto riguarda i foreign fighters, che comunque da noi sono molto meno di quelli di altri paesi come Gran Bretagna, Germania, Francia e Belgio. Fra i 53 censiti in Italia c'è anche un tunisino, Abdelkader Ben Moez Fezzani, già arrestato in Afghanistan e poi detenuto a Guantanamo. Rimesso in libertà, l'uomo era rientrato nel nostro paese dal quale, secondo i nostri 007, sarebbe poi ripartito alla volta della Siria per combattere fra le fila del califfato. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E naturalmente c'è qualche timore anche per quel che riguarda la prossima manifestazione in arrivo a maggio del 2015, lo ricordiamo, si inaugura Expo. Ebbene, Giuseppe Sala, commissario di Expo, ha parlato anche di questo, è intervenuto questa mattina a Mix 24, sentiamo cosa ha detto a Giovanni Minoli. Sì, lo può essere, però è un tema a cui stiamo pensando da un anno e mezzo, quindi ci stiamo parlando. Organizzando sulla protezione, diciamo. Esattamente. Se fossimo a 108 giorni con tutto l'inventario sarei molto preoccupato. So quello che abbiamo fatto fino ad oggi. Avete fatto abbastanza, secondo lei, per non aver paura? Penso di sì. Stiamo lavorando da un anno e mezzo con il Ministero degli Interni, Prefettura, Questura, con le aziende che ci garantiscono la sicurezza, quindi penso che siamo messi abbastanza bene. Innanzitutto, essendo un sito, diciamo, da 1 milione di metri quadrati, prima di tutto telecamere. Avremo 400 telecamere all'aperto e circa 1 migliaio in luoghi chiusi. Dopodiché abbiamo una nostra vigilanza, abbiamo fatto una gara di circa 1 migliaio di persone e in più si aggiungeranno le forze dell'ordine. Una notizia appena battuta dalle agenzie, che è una dichiarazione molto dura di Susanna Camusso, segretario della CGIL, la quale dice che il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, considera un nemico il lavoro e considera nemiche le condizioni dei lavoratori. Secondo Camusso, per Renzi i lavoratori sono nemici. Passiamo proprio al Presidente del Consiglio, che oggi ha chiuso il semestre di presidenza europeo a Strasburgo, all'Europarlamento. Alessandra Schepisi ci aggiorna. Alessandra, buongiorno. Sì, buongiorno. Fine del semestre europeo ed è dunque il momento di bilanci per il Premier Renzi, che rivendica il merito dell'Italia nell'aver contribuito a far cambiare marcia all'Europa. L'Italia ha fatto molto chiedendo una svolta nel segno della crescita e della flessibilità, dice Renzi. La strada in questi mesi è cambiata, ma si deve fare di più. Sentiamo questo passaggio. L'Italia ha proposto un cambiamento del paradigma economico che ha caratterizzato questi anni nel nostro dibattito continentale. Io credo che o l'Europa cambia marcia sull'economia, oppure noi diventiamo il fanalino di coda di un mondo che cambia molto rapidamente. Dunque una richiesta di un ulteriore cambio di marcia, mentre rimane un unico rammarico di questi sei mesi: la sconfitta sulla tutela del Made in. Su questo ci sono state incomprensibili resistenze, dice il Premier. Poi un inevitabile richiamo ai fatti di Parigi: i valori europei sono più forti del terrorismo, aggiungendo che però non ci si può chiudere in fortezze in nome della sicurezza, perché la libertà è la sua precondizione. Un intervento durante il quale non sono mancate contestazioni da parte degli euroscettici, un battibecco con Matteo Salvini, gli attacchi di Grillo che era a Strasburgo, mentre il passaggio più applaudito è quando Renzi ha chiesto il saluto del Parlamento ad un europeista convinto come Giorgio Napolitano, prossimo a lasciare la Presidenza della Repubblica. Vorrei che oggi da qui il Parlamento europeo portasse il proprio saluto al Presidente della Repubblica italiana, Giorgio Napolitano, convinto europeista, che proprio in queste ore lascerà il proprio incarico, avendo compiuto un lungo percorso di cambiamento e avendo affrontato le difficoltà in Italia con l'intelligenza, la saggezza che molti di voi gli hanno riconosciuto lavorandoci a fianco anche in quest'Aula negli anni passati. E Renzi poi, nella conferenza stampa che è seguita, ha spiegato: il Presidente della Repubblica è un arbitro, a volte con rilevantissime responsabilità, e dunque dovrà essere individuata una personalità di alto livello. Tornando infine al semestre europeo, da sottolineare il commento del Presidente della Commissione Juncker: l'Italia ha fatto un buon lavoro, è stata all'altezza. A te, Simone. Grazie Alessandra Schepisi. Tra le reazioni più dure, come sentivamo, quella di Matteo Salvini, leader leghista. Sentiamo un passaggio del suo intervento. Ci occupiamo dei problemi di mezzo mondo, ci sono due soldati europei da anni trattenuti in India, rimandati avanti e indietro, zero. Immigrazione, avete cambiato i nomi ma non cambia il senso, potete chiamarlo Mare Nostrum, Triton, Pippo, Pluto o Paperino, è in corso un'invasione senza precedenti che mette a rischio l'incolumità di milioni di cittadini europei. Su questo cosa avete fatto? Zero. Si chiude dunque il semestre europeo e si avvicinano le dimissioni del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che Vincenzo Miglietta potrebbero arrivare già domani mattina, no? Sì, buongiorno Simone, buongiorno ai nostri ascoltatori. È così, saluto intanto questa mattina i corazzieri per Giorgio Napolitano, quindi un fuori programma con alcuni piccoli studenti all'esterno del Quirinale per un'iniziativa della Polizia di Stato. Certo che sono contento di tornare a casa, ha risposto il Presidente ad un bambino. Qui si sta bene, tutto molto bello, ha aggiunto il Capo dello Stato, ma è un po' una prigione, a casa starò bene e passeggerò. Il trasloco sarebbe già in corso, sia verso l'abitazione privata sia verso lo studio da senatore a vita che Napolitano avrà a Palazzo Giustiniani. La lettera di dimissioni dovrebbe arrivare allora domani in tarda mattinata, destinatari due presidenti delle Camere e il Presidente del Consiglio. Si aprirà a quel punto ufficialmente l'iter previsto dalla Costituzione, articolo 86, entro 15 giorni, riunione del Parlamento in seduta comune, presenti anche i delegati regionali, quindi l'avvio delle votazioni. Le prime tre prevedono i due terzi dell'Assemblea, dalla quarta il quorum scende alla maggioranza assoluta. Secondo alcuni calcoli confermati indirettamente dallo stesso Renzi, si potrebbe avere il nuovo capo dello Stato già il 1 febbraio. Sino ad allora presidente pro tempore sarà il presidente del Senato Grasso. Toto nomine, infine Simone, fermo al palo, non ci sono novità. Qualcosa potrebbe trapelare domani dalla segreteria del PD convocata alle 7:30 da Renzi. È tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta, si parlava di Europa, c'è un'altra notizia appena arrivata dalle agenzie, è arrivato il via libera finale dell'Europarlamento alla direttiva che consentirà ai paesi membri europei di limitare o proibire la coltivazione di OGM, organismi geneticamente modificati, sul territorio nazionale, anche se questi sono autorizzati a livello europeo. E adesso però ci occupiamo di sport. This is an international team. It's the UN of basketball teams. Marco Bellinelli, who we miss on the Bulls. Non è male Carlo Genta, il presidente americano Barack Obama che ti dice, che dice a Marco Bellinelli, ai Bulls, ai Chicago Bulls ci manchi. L'immagine storica che Bellinelli insomma tramanderà ai suoi avi, ai suoi discendenti, per chissà quante generazioni. L'immagine era colpisce, no? Vedi proprio Obama, dietro di lui Bellinelli elegantissimo ovviamente, completo grigio, cravatta nera. E quando dice queste parole ovviamente Bellinelli non riesce a trattenere, abbassa gli occhi, non riesce a trattenere un sorrisino di soddisfazione. Erano i campioni NBA, i San Antonio Spurs, in visita presidenziale tradizionale e appunto Obama passa in rassegna tutti i giocatori, alcuni di alcuni cita solo il nome Bellinelli, e manca molto ai nostri Chicago Bulls, perché sappiamo bene come sia tifoso della ex squadra di Michael Jordan. Vabbè, un'ulteriore gemma sull'anello di Marco Bellinelli. Niente male, niente anche male, con questa introduzione male. Dicendo che i San Antonio Spurs sono un po' le Nazioni Unite del basket, sì. Proprio perché insomma c'è dentro un po' di tutto, compreso anche Ettore Messina, anche Ettore Messina. Anche Ettore Messina. Un'ultima nota Carlo, sempre e passiamo a note più un po' più tristi, lo scontro tra Roma e Lazio post derby che prosegue un po' più di basso livello, un po' più pallosa, sì, ci sono stati diversi tweet del presidente Lotito, il derby del giorno dopo, tweet del presidente Lotito contro la Roma, contro i selfie di Totti, dicendo non scommetterei sullo scudetto della Roma, sarei disposto a giocarmi la presidenza della Lazio purché la Roma non vincesse lo scudetto, eccetera. C'è la risposta del DS della Roma Baldissoni, molto dura, molto pesante, la toccata non pianissimo. Se scommetterei sullo scudetto della Roma, no, è alla Lazio che sono esperti di scommesse, noi non ce ne intendiamo. Bello duro. Poi volendo c'è anche Pallotta, è un peccato come lo Tito commenti Totti sul selfie, è stato un gran momento, ma avrei quasi preferito un suo selfie con la faccia sul gol. Allora, grazie Carlo, ti ritroviamo con tutti i convocati, con questi ed altri argomenti, magari anche qualcuno si spera che intervenga su Bellinelli. Tra un attimo parleremo di Sanremo, perché è in corso la conferenza stampa di presentazione, ma prima sentiamo che cosa succede sulle strade. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Oggi i funerali degli agenti uccisi negli attacchi di Parigi, mentre si cercano i complici degli jihadisti, sarebbero almeno 6, e c'è un francese detenuto in Bulgaria che avrebbe avuto contatti con i fratelli Kouachi. L'allerta in Italia resta alta, ma nessuna minaccia specifica, ribadiscono fonti ufficiali e dell'intelligence. Il commissario di Expo Sala Radio 24, la manifestazione può essere un obiettivo, ma siamo pronti, ci stiamo preparando da un anno e mezzo. Renzi chiude il semestre di presidenza, l'Europa ha cambiato direzione, ma ora i fatti, 6 mesi di nulla, dice il leader leghista Salvini. Sono le ultime ore di Giorgio Napolitano alla presidenza della Repubblica, sono contento di tornare a casa, dice il capo dello Stato. In ultimo le dichiarazioni della segretaria della CGIL, Susanna Camusso, contro Renzi, dice considera i lavoratori come nemici, e questo sarà sicuramente un argomento di dibattito politico della giornata. Saluto Antonello Soro, presidente dell'Autorità Garante per la Privacy. Buongiorno e benvenuto ai nostri microfoni. Ne abbiamo già parlato ieri, tra l'altro, proprio con il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, che è intervenuto più o meno a quest'ora ai nostri microfoni. Il tema è come contemperare, come mettere insieme l'esigenza di nuovi controlli antiterrorismo e le esigenze di un diritto inviolabile come quello della privacy. Si sta ragionando sull'ipotesi di estendere il mantenimento dei dati dei passeggeri che transitano sul territorio europeo e portarlo fino a 3 anni, una cosa che fino adesso il Parlamento europeo ha rifiutato e che invece forse sulla pressione e sull'emozione, se vogliamo, di quello che è successo a Parigi potrebbe, sulla quale potrebbe dare l'ok. Vorrei sapere come, innanzitutto come valuta questo. Ma questo singolo aspetto, il PNR, questo sistema di condivisione da parte delle paesi europei delle informazioni relative ai cittadini che hanno utilizzato gli aerei europei per muoversi nel mondo è un'esigenza di organizzazione, diciamo, di efficientizzazione delle attività di sicurezza che di per sé è una cosa positiva, naturalmente se ricondotta dentro i canoni dell'efficienza da un lato e dall'altra della proporzionalità attraverso la quale si gestisce questo sistema, nel senso che bisognerà, credo che questa sia un po' l'indirizzo che anche l'Unione e la Commissione stia predisponendo, quello di minimizzare, diciamo, le restrizioni, di consentire che si armonizzino i sistemi già in vigore nei vari paesi europei, che si conceda l'accesso limitatamente a questa grande banca dati, limitatamente ai casi nei quali l'autorità giudiziaria possa stabilire che sia indispensabile, quindi per reati gravi, in questo caso di terrorismo, che è quello che è previsto. Quindi si tratta di vedere da una parte quali misure verranno adottate per rendere il sistema sicuro, ma di per sé non c'è nulla in contrario alla costruzione di banche dati sicure. Il vero problema credo che sia di evitare scelte sulla spinta emotiva legate a una vicenda come quella recente, ma così come è accaduto negli Stati Uniti all'indomani dell'11 settembre, scelte emotive nelle quali si sbandi nel rapporto fra sicurezza e diritti dei cittadini. Anche perché veniamo solo da tutta la vicenda Snowden che ampiamente abbiamo raccontato, e questo esteso sistema di controllo anche delle autorità di sicurezza americane. Allora, che peraltro ha fallito, nel senso, o comunque non ha centrato gli obiettivi, perché una massiccia e così indiscriminata acquisizione di informazioni non selezionate, non legate a indagini specifiche, quale quella che si è verificata che è stata messa in evidenza dal Datagate, ha suscitato giustamente un enorme scandalo planetario, non solo per la compressione grave dei diritti, ma anche per la inefficacia. Un sistema così vasto di raccolta informazioni di per sé rende oggettivamente difficile la gestione del patrimonio informativo. Allora il problema è capire quali sono le caratteristiche che in questo momento ha il terrorismo internazionale, purtroppo una minaccia incombente da tempo che tendenzialmente ha spostato il bersaglio dalle istituzioni simbolo alle persone simbolo e che utilizza moltissimo i sistemi informatici. E di ieri una notizia che a mio parere è clamorosa, cioè è stata violato il comando centrale della difesa degli Stati Uniti. Sì. Questo dà l'idea di quale sia il rischio vero. Sì. E quindi la raccolta delle informazioni e la protezione dei dati che vengono raccolti diventa prevalente proprio per difendere i sistemi paese, per difendere la sicurezza nazionale. La privacy, interpretata in questo modo, è una componente strutturale della sicurezza cibernetica e non alternativa o antagonista. Per cui occorre, in un momento così difficile, avere la capacità di giudizio, di serenità, non delegare in modo esclusivo alle tecnologie la ricerca di una risposta a questa minaccia, ma facendo molto affidamento all'intelligenza dei nostri servizi di sicurezza, a un'intelligenza intelligente, come qualcuno ha scritto in queste ore. Nervi saldi, dice lei, appunto, non legiferare sull'onda dell'emozione. Molto brevemente, teme che si imbastiscano appunto dei sistemi di controllo sulla rete in particolare troppo stringenti e inaccettabili, come dire, da un punto di vista proprio della gestione della nostra privacy? Ma insomma, il nostro ordinamento, che è un ordinamento abbastanza serio, quello italiano, e che è all'interno di un ordinamento europeo che tutela i dati personali, che ha trovato un punto di equilibrio fra la difesa dei diritti alla sicurezza e del diritto alla riservatezza, consente l'accesso alle informazioni sulla base di una specifica autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria, e può anche questo avvenire ancora più puntualmente di quanto probabilmente si sia fatto in passato. Quindi non è un problema di difendere la privacy e di usare con intelligenza l'equilibrio fra due strumenti molto importanti, che sono quello della ricerca di un attore della minaccia terroristica e anche della difesa generale dei cittadini. Negli Stati Uniti c'è stato un momento in cui si riteneva che anche soltanto l'1% delle possibilità giustificasse la raccolta del 100% delle informazioni. È sbagliato. Direi che su questo si sono pronunciate le autorità degli stati, sì, dalle Nazioni Unite alla giurisprudenza europea. Non dobbiamo ricascare indietro, dobbiamo avanti, proteggere di più la nostra pubblica amministrazione prima di tutto. Quando si parla di amministrazione in cloud, e cioè in server che non sono sufficientemente protetti, si sta mettendo a repentaglio la vita di tutti, dei sistemi di sicurezza di tutti i cittadini, quindi la protezione delle grandi banche dati del paese, non solo di quelle che hanno a che vedere con i servizi segreti, ma quelle che vengono prodotte e organizzate dalla pubblica amministrazione, sono quelle il punto di maggiore vulnerabilità. E ripeto, se in questo momento è stata violata il comando centrale della difesa degli Stati Uniti, ho qualche dubbio che la pubblica amministrazione italiana sia più protetta. Quindi investire di più in protezione dei dati è lo strumento per difendere la sicurezza. Grazie. Grazie Antonello Soro, presidente dell'autorità garante per la privacy. Andiamo a chiudere questa parte di Effetto Giorno, poi ci ritroveremo subito dopo con ancora altri argomenti, collegandoci con la nostra Marta Cagnola, perché questa mattina è stato presentato il Festival di Sanremo. Marta, buongiorno. Buongiorno Simone. Sì, ancora in corso la conferenza stampa della prossima edizione di Sanremo, ad affiancare Carlo Conti, le due co-conduttrici, anzi loro scherzando hanno detto proprio Vallette e Maya Risa, come ormai ampiamente anticipato da indiscrezioni di stampa. Con loro però ci sarà, e questa è una notizia, una bellona, Rocío Muñoz Morales, più o meno famosa per la fiction Un passo dal cielo con Terence Hill, ma soprattutto per la sua storia d'amore con Raul Bova, quindi il gossip è salvo. Per ora annunciata una presenza d'eccezione tra gli ospiti, cioè uno dei più grandi protagonisti della musica italiana, un uomo estremamente schivo, il maestro Pino Donaggio, per i 50 anni di Io che non vivo. Per quanto riguarda invece super ospiti stranieri, scusate, questa è la grande attesa, ma il direttore di Rai 1 dice non è possibile sbilanciarsi troppo perché ci sono ancora trattative in corso. Con i Pink Floyd ci ho provato in tutti i modi ma non c'è stato niente da fare, ha detto Carlo Conti. Al momento gli unici sicuri sono gli Imagine Dragons nella prima puntata. Grazie, grazie alla nostra Marta Cagnola per questi aggiornamenti. C'è un altro argomento sul quale torneremo tra un attimo. Io intanto saluto il nostro prossimo ospite, che è Alessio Fabiano, docente di storia dell'Africa contemporanea all'Università Cattolica, sede di Brescia. Fabiano, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Ed è questo, vi leggo questa dichiarazione di Ignatius Ayau Kaigama, che è arcivescovo di Jos in Nigeria e presidente della conferenza episcopale. Non ci possono essere vittime di serie A e di serie B, perché in tutto quello che è successo a Parigi forse abbiamo lasciato un po' da parte quello che è successo in Nigeria, dove circa 2000 persone sono state letteralmente massacrate dagli integralisti di Boko Haram. Una storia sulla quale vogliamo tornare, un quadro che vogliamo avere proprio da Fabiano subito dopo la pausa e la borsa. Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. E come annunciato poco fa, siamo con Alessio Fabiano, docente di storia dell'Africa contemporanea all'Università Cattolica, sede di Brescia, per fare un punto proprio su quello che sta succedendo in Nigeria. Nei giorni scorsi gli integralisti di Boko Haram hanno fatto una strage in alcuni villaggi, una cosa che è quasi passata sotto silenzio perché qua in Europa erano le ore degli attentati e degli attacchi a Parigi e quindi l'attenzione era naturalmente concentrata su quello. Vogliamo tornare a fare un punto proprio con Fabiano. Io vorrei capire qual è la situazione nel paese innanzitutto. La situazione è quella che ormai è da diversi anni, cioè la situazione di un governo che insieme all'esercito non sono in grado di fermare una minaccia terroristica che sta diventando sempre più importante in termini di vittime e che ha raggiunto un punto cosiddetto di escalation nell'analisi di questo tipo di eventi, vale a dire Boko Haram sta puntando sempre più in alto e potrebbe da un momento all'altro passare ad un attacco extraregionale, che cioè non sia più confinato alla regione di attuale radicamento, vale a dire il nord-ovest della Nigeria. E quindi spostarsi naturalmente. Governo che tra l'altro, se non erro, Fabiano, ha mandato un messaggio di condoglianze a Parigi per le vittime appunto di Charlie Hebdo e però pare che non abbia dichiarato quasi in merito a quello che è successo sul suo territorio. Sì, questo fa parte diciamo di una strategia del governo di fare in modo che le notizie non giungano, se giungano, giungano a favore del governo, quindi recenti sono le notizie, la notizia anzi in cui il governo di Goodluck Jonathan, che è il presidente della Nigeria, tende a minimizzare il numero delle vittime causate dagli ultimi attacchi di Boko Haram. Questo diciamo è un elemento che noi ritroviamo sempre proprio perché è un punto di difesa prioritario da parte del governo, visto che è incapace praticamente a tutt'oggi a far fronte alla minaccia posta da questo gruppo terroristico. Un'ultima domanda sulle caratteristiche di Boko Haram, che noi siamo sempre stati abituati fino adesso a considerare come una forza estremista, integralista, di matrice puramente regionale, appunto, ma non solo di quell'area della Nigeria, in genere a considerarla insomma una forza regionale di quell'area. Io vorrei capire da lei se è una forza integralista che ha intenzione di muoversi in altre direzioni, visto che di jihadismo internazionale stiamo parlando in queste ore. Potrebbe muoversi, è l'elemento che può spingere Boko Haram a muoversi fuori dal suo territorio di radicamento e quindi porre una minaccia in territori che comunque sono di confine alla Nigeria, come per esempio già è avvenuto col Camerun oppure più di recente con il Chad, sta nel fatto che Boko Haram voglia in qualche modo influenzare le vicende politiche interne della Nigeria, in modo particolare le prossime vicende politiche interne, ossia le elezioni generali, le elezioni presidenziali che ci saranno a metà febbraio. Se Boko Haram riesce in questa strategia, significa porre una minaccia direttamente al presidente e forse questa è una chiave di lettura che ci permette di capire perché Boko Haram sta utilizzando, come sembra, anche nuove strategie per attaccare il governo e per cercare di controllare il territorio, come quello per esempio dell'uso di bambini kamikaze oppure ancora dell'attacco selvaggio a villaggi che sono sperduti e di cui non ha il controllo l'esercito stesso. Grazie Alessio Fabiano, docente di storia dell'Africa contemporanea all'Università Cattolica di Brescia, e saluto un altro docente universitario che è Leonardo Morlino, che insegna scienza politica alla Luis Guido Carli di Roma ed è anche prorettore dello stesso Ateneo. Morlino, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei, ascoltatori. Mi dà un giudizio generale su questo semestre di presidenza che si chiude oggi? Allora, difficile. Non è difficile, il problema è come dirlo. Partiamo dal classico luci e ombre, luogo comune giornalistico, prego. No, io partirei, se non le dispiace, da un altro punto di vista. dopo il trattato di Lisbona la presidenza, questa presidenza di cui stiamo parlando, conta pochissimo. Cioè prima del trattato di Lisbona contava un po' di più, ma dopo il trattato di Lisbona conta pochissimo. Quindi probabilmente, siccome noi siamo molto abituati a guardarci dentro, stiamo dando importanza a qualcosa che importanza non ce l'ha più o ce l'ha molto meno. Quindi di suo il semestre di presidenza non è così importante, dice lei. Non è importante, chiedo scusa, diciamocelo con chiarezza, non è importante. Non è importante. Allora, qualche risultato secondo lei comunque si è riuscito ad ottenere oppure detto no? Detto questo, in questo caso il semestre di presidenza, pur cadendo a quasi circa 12 anni dalla volta scorsa e la prossima volta accadrà, non so, nel 2028, detto questo è capitato nel momento in cui cambiavano, ci sono le elezioni, cambiavano le autorità. Quindi questo lo ha ulteriormente indebolito come possibilità. Allora, il governo ovviamente deve dire abbiamo fatto qualcosa, abbiamo raggiunto gli obiettivi, magari delle piccole cose sono state fatte. Altri sosterranno, e anche questo è perfettamente comprensibile, che da un punto di vista organizzativo si poteva fare tutto meglio, si poteva organizzare meglio, si poteva avere degli obiettivi precisi e più limitati. Si è detto, e per quel che so io, è stato così, ad un certo momento Renzi ha voluto controllare e quindi ha messo sotto sopra agende e possibilità di risultati più concreti, quindi c'è stato anche tutto questo. Il risultato non è che sia né deludente né non è deludente, insomma non c'è stato ma non ce l'aspettavamo. Sui due fronti che sui quali avremmo voluto più margini, ossia il tema dell'immigrazione e il tema della flessibilità di bilancio, le sembra che qualcosina ne sia uscito? A me non pare, però sono pronto a rivedere il mio giudizio, non pare, perché sulla flessibilità ci sono state, diciamo, le regole già c'erano e quel tanto di flessibilità che era possibile a queste regole è rimasto. Io lo stesso programma di Juncker vorrei poi capirlo e vederlo meglio applicato, meglio risistemato, perché anche quello mi pare che è un po' in aria. Per quanto riguarda l'immigrazione, va bene, c'è stata la sostituzione del programma con un nuovo programma, appunto dopo la fine del nostro programma che abbiamo fatto, diciamo, come Italia, con un nuovo programma europeo. Vediamo quando funziona. Grazie, la ringrazio anche per il giudizio, devo dire la verità, piuttosto duro, anche sul senso stesso di un semestre di presidenza europeo. Grazie a Leonardo Morlino, docente di scienza politica e prorettore alla Luis Guido Carli di Roma. Traffico. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. È il momento, come sempre, di Mario Platero. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. In a startling change of foreign policy, the U.S. Central Command announced on Twitter, in the name of Allah, the most gracious, the most merciful, the cyber caliphate continues its cyber jihad. Beh, avete sentito l'annuncio, il newscaster che dà la notizia: è nato il cyber califfato, meglio una costola del califfato dell'ISIS che si dedica all'hackeraggio. La notizia l'avrete già sentita, perché devo dire è piuttosto bizzarra, preoccupante naturalmente, ma forse più bizzarra che preoccupante. Un gruppo di hackers che, secondo le notizie diramate da gruppuscoli vicini all'ISIS, fanno capo all'organizzazione terroristica, hanno penetrato la

e magari l'archiviazione di conflitti ingiusti. John Legend and Common Glory. One day when the glory comes, it will be ours, it will be ours. Oh, one day when the war is won, we will be sure, we will be sure. Oh, glory, glory, glory. Oh, glory, glory. Hands to the heavens, no man, no weapon formed against, yes, glory is destined. Everyday women and men become legends. Sins that go against our skin become blessings. The movement is a rhythm to us. Freedom is like religion to us. Justice is juxtaposition in us. Justice for all just ain't specific enough. One son died, the spirit is revisiting us. True and living, living in us. Resistance is us. That's why Rosa sat on the bus. That's why we walked through Ferguson with our hands up. When it go down, we woman and man up. They say stay down and we stand up. Shots we on the ground, the camera panned up. King pointed to the mountaintop and we ran up. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! Ed è tutto per Effetto Giorno. I ringraziamenti Filippo Aureggi in regia, Laura Faggini in assistenza e redazione, come sempre tutta la redazione di Radio 24. I nostri contatti per scriverci: effettogiorno@radio24.it, la nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno. La trasmissione torna come sempre domani alle 13. Noi ci risentiamo tra un attimo con GR24.